Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 13. Lo Spirito Santo ordinò che Saulo e Barnaba siano segregati per predicar tra gentili, ed essendo alla voce di Paolo diventato cieco Bargesù, ossia Elima Mago, il quale si opponeva alla loro predicazione, Sergio Paolo abbraccia la fede. In Antiochia della Pisidia Paolo disputa intorno a Cristo nella sinagoga, ma bestemmiando i giudei, e sollevando persecuzione contro di essi, si rivolgono a gentili secondo la predizione di Isaia. Erano nella chiesa di Antiochia dei profeti, e dei dottori, tra quali Barnaba, e Simone chiamato il Nero, e Lucio di Cirene, e Manaen fratello di Latte di Erode tetrarca, e Saulo. Or mentre essi offerivano al Signore i sacri misteri, e digiunavano, disse loro lo Spirito Santo, mettetemi a parte Saulo e Barnaba per un'opera, alla quale li ho destinati. Allora dopo di aver digiunato, orato, imposte loro le mani, li licenziarono. E gli adunque mandati dallo Spirito Santo, andarono a Seleucia, e di lì navigarono a Cipro. E giunti a Salamina, annunziavano la parola di Dio nelle sinagoghe degli ebrei. E avevano Giovanni per aiuto. E avendo scorsa tutta l'isola sino a Pafo, trovarono un certo uomo mago, falso profeta, giudeo, per nome Bargesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo prudente. Questi chiamati a sé Barnaba, e Saulo, bramava di udire la parola di Dio. Ma Elima il mago si opponeva loro, cercando di alienare il proconsole dalla fede. Ma Saulo, il quale si chiama anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, mirando fissamente colui, disse, «O tu, che sei pieno d'ogni inganno, e di ogni falsità, figliuolo del diavolo, nemico di ogni giustizia, tu non rifinisci di pervertire le vie diritte del Signore. Or ecco dunque la mano del Signore sopra di te, e resterai cieco senza vedere il sole per un tempo». E subitamente una tenebrosa caligine cadde sopra di lui, e aggirandosi intorno cercava chi gli desse mano. Allora il proconsole veduto il fatto, credette, ammirando la dottrina del Signore. E da Pafo partitosi Paolo, e quelli, che erano con lui, arrivarono a Perge della Panfilia. Ma Giovanni separatosi da essi, ritornò a Gerusalemme. E Lino, lasciata Perge, giunsero ad Antiochia della Pisidia. Ed entrati nella sinagoga il giorno di sabato, si misero a sedere. E fatta che fu la lettura della legge, e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro, «Fratelli, se avete qualche discorso da istruire il popolo, parlate». E Paolo alzatosi, e facendo con la mano segno di tacere, disse, «Uomini israeliti, e voi, che temete Dio, udite, il Dio del popolo di Israele elesse i padri nostri, ed esaltò il popolo, mentre abitavano pellegrini nella terra di Egitto, e alzato il suo braccio li trasse fuori di essa, e per lo spazio di 40 anni sopportò i loro costumi nel deserto. Distrutte poi 7 nazioni nella terra di Canaan, distribuì loro a sorte la terra di esse, circa 450 anni dopo, e di poi diede i giudici sino a Salimele profeta. E poscia chiesero un re. E Dio diede loro Saulle figliuolo di Cis, uomo della tribù di Beniamin, per anni 40, e tolto lui, suscitò loro per re Davide, cui rendendo testimonianza, disse, «Ho trovato Davide figliuolo di Gessi, uomo secondo il cuor mio, il quale farà tutti i miei voleri». Del seme di questo trasse Dio, secondo la promessa, il Salvatore per Israele, Gesù. Avendo predicato Giovanni dinanzi a lui, che veniva, il battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. E terminando Giovanni la sua carriera, diceva, «Chi credete voi, che io mi sia? Non sono io quello, ma ecco, che viene dopo di me uno, di cui non soli degno di scioglier dai piedi i sandali. Uomini fratelli, figliuoli della stirpe di Abramo, e chiunque tra voi teme Dio, a voi la parola di questa saluto è stata mandata. Impero che gli abitanti di Gerusalemme, e i di lei principi non avendo cognizione di lui, né delle voci dei profeti, le quali si leggono ogni sabato, condannato lui le adempirono, e non avendo trovato in lui causa alcuna di morte, chiesero a Pilato, chi fosse ucciso. E consumate che ebbero tutte le cose, che erano siate scritte di lui, depostolo dal legno, lo posero nel monumento. Ma Dio lo risuscitò da morte il terzo giorno, e fu veduto per molti di da coloro, i quali erano andati insieme con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sino a quest'ora sono suoi testimoni presso del popolo. E noi vi annunziamo, come quella promessa, la quale fu fatta a nostri padri, la Dio adempiuta per nostri figliuoli, avendo risuscitato Gesù, siccome anche nel Salmo secondo sta scritto, tu sei mio figliuolo, oggi io ti ho generato. Come poi lo ha risuscitato da morte, e come non debbe più ritornare nella corruzione, lo disse in questo modo, farò, che siano ferme per voi le promesse fatte a Davide. Per questo anche altrove dice, non permetterai, che il tuo santo veda la corruzione. Impero che Davide avendo nella sua età servito alla volontà di Dio, si addormentò, e fu aggiunto a suoi padri, e vide la corruzione. Ma quelli, cui Dio risuscitò, non vide la corruzione. Sia dunque noto a voi, uomini fratelli, come per lui è annunziata a voi la liberazione da peccati, e da tutte quelle cose, dalle quali non avete potuto essere giustificati nella legge di Mosè, in lui è giustificato chiunque crede. Badate adunque, che non venga sopra di voi quel che sta scritto nei profeti, mirate voi, disprezzatori, e stupite, e andate in dispersione, conciò sia che fo io un'opera nei vostri giorni, opera, che voi non crederete, se alcuno ve la racconterà. E uscendo essi li pregarono, che discorressero di queste cose il sabato seguente. E licenziata l'adunanza, molti dei giudei, e dei proseliti religiosi seguitarono Paolo, e Barnaba, e questi con le loro parole persuadevan loro a star fermi nella grazia di Dio. E il sabato seguente quasi tutta la città si raunò per sentire la parola di Dio. Ma i giudei veduto quel concorso, si riempiron di zelo, e contraddicevano a quel che diceva Paolo, bestemmiando. Allora con fermezza dissero Paolo e Barnaba, a voi primamente dovea essere detta la parola di Dio, ma già che la rigettate, e vi sentenziate come indegni della vita eterna, ecco, che ci rivolgiamo alle genti, impero che così ci ha ordinato il Signore, ti ho costituito luce delle genti per essere salute fino alle terre più remote. Ciò udendo i gentili, si rallegravano, e glorificavano la parola del Signore, e credettero tutti quelli, che erano preordinati alla vita eterna. E la parola di Dio si spargeva per tutto quel paese. Ma i giudei miser su delle matrone timorate, e ragguardevoli, e i principali uomini della città, e suscitarono persecuzione contro di Paolo, e Barnaba, e li scacciarono dal loro territorio. Egli non però scossa contro di coloro la polvere dei loro piedi, andarono a Iconio. I discepoli poi erano ripieni di gaudio, e di Spirito Santo. Note, 13,1, dei profeti, e dei dottori, eci. Quanto ai profeti abbiamo veduto, che questo dono era assai comune nella Chiesa di Dio. Quanto poi ac dottori sono diversi tra loro i sentimenti degli interpreti. Pare a me verisimile, che questi fossero che ex sacerdoti, dei quali parla esse, Paolo, i, Tim v. 17. I quali essendo preposti alle diverse adunanze dei fedeli, le quali dovevano essere non poche nelle grandi città, si affaticavano nell'istruire il popolo, nell'interpretargli le scritture, e nel dirigerlo nelle vie del Signore, i sacerdoti insomma, che facevano allora quello, che è l'ufficio dei nostri parrochi. Simone e Lucio e Manaeneci. Di questi, che erano allora ragguardevoli personaggi nella chiesa di Antiochia, nulla abbiamo di certo nella storia della chiesa. I nomi dei primi due si trovano nei martirologi latini. Fratello di latte Eci. La voce greca può anche significare che Manaen fosse stato allevato insieme con Erode, il quale Erode è quello che uccise Giovanni Battista. In ogni modo si vede che questo Manaen era di famiglia grande e potente nel mondo. 13,2. Or mentre essi offerivano i sacri misteri, eici. La voce greca può significare anche le altre funzioni proprie dei sacerdoti, o dei vescovi. Ma in questo luogo il senso che le abbiamo dato sembra il più naturale. Mettetemi a parte Saulo e Barnaba per un'opera, eici. Per andare a predicare alle genti, come la serie della storia ci fa conoscere. Questa parola mettere a parte, separare si adopera nelle scritture per significare come una cosa si segrega da ogni umano commercio per consacrarla al Signore, così la separazione dei primogeniti, così quella dei frutti della terra, così finalmente quella dei sacerdoti e dei leviti è notata nel Vecchio Testamento. E nella stessa guisa nella Nuova Legge si segrega dal rimanente dei fedeli un numero di uomini eletti per essere interamente consacrati al servizio di Dio e della sua Chiesa. 13,3 Allora dopo di aver digiunato e orato, imposte loro le mani, eici. In tal modo si facevano fin da allora le ordinazioni dei ministri della Chiesa. Queste erano spesse volte precedute da qualche rivelazione o espresso comandamento dello Spirito Santo, accompagnate dai digiuni, dalla oblazione dell'incruento sacrificio dell'altare e dalla imposizione delle mani, con la quale si conferiva la grazia. Così questa ordinazione di Saulo e Barnaba è stata il modello di tutte le ordinazioni celebrate dalla Chiesa in tutti i secoli susseguenti. E Simone, e Lucio, e Manen dovevano essere già stati ordinati vescovi dagli apostoli, e di qui ancora imparò la Chiesa quella sua antichissima regola, che il vescovo non sia ordinato se non da tre vescovi. 13,4 Andarono a Seleucia, e di lì a Cipro. Seleucia città popolata, e celebre, vicina ad Antiochia e di rimpetto all'isola di Cipro. Cipro era la patria di Barnaba, ed era ma di ebrei. Salamina era la capitale dell'isola. 13,5 E avevano Giovanni per aiuto. Per sollevare gli apostoli nelle inferiori funzioni. Può essere che egli fosse diacono. 13,6 Trovarono un mago per nome Bargesù, eci. Vi erano in questi tempi tra giudei molti di questi maghi, i quali facevano tutti i loro sforzi per contraffare con l'aiuto dei demoni i miracoli di Gesù Cristo e dei suoi apostoli. Bargesù significa figliuolo di Gesù, ovvero di Giosuè. 13,7 Era col proconsole Sergio Paolo. L'isola di Cipro era in questi tempi governata da un pretore, e non da un proconsole, ma siccome altre volte aveva avuto dei proconsoli, non è da maravigliarsi se i greci molto facili ad abbondare nei titoli di onore continuassero a chiamare proconsole uno, che era solamente pretore. 13,8 Elima il mago, imperocheici Elima è voce arabica, che significa mago ossia sapiente, e perciò si può credere che costui fosse arabo di nazione. 13,9 Ma Saulo, il quale si chiama anche Paolo. E col nome di Paolo sarà da ora in poi chiamato sempre da esse, Luca, della qualcosa volendo rendere ragione gli interpreti, né avendosi nulla di certo su questo punto, si abbandonano chi ad una e chi ad un'altra congettura. La più verisimile sembra essere questa, che l'apostolo avesse due nomi, uno ebreo e l'altro romano, essendo egli giudeo di origine e di religione e cittadino romano per esser nato in Tarso, e che del nome romano si cominciò a servire, allorché principiò a trattare coi gentili, per essere questo più noto e ai greci, e ai latini. 13,10 Tu non rifini di pervertire le vie diritte del Signore. Tu non cessi di porre inciampo a chi sarebbe disposto a battere le vie del Signore, d'impedire la propagazione del Vangelo con le tue falsità, e con le tue male arti. 13,11 Resterai cieco senza vedere il sole per un tempo. Questa cecità temporaria era piuttosto una medicina che una pena. Con essa volle Dio rendere la luce dell'anima a questo mago, il quale infatti si convertì e fece penitenza e abbracciò egli pure il Vangelo, secondo che affermano Origene e S. Gio. Grisostomo. 13,13. Ma Giovanni separatosi da essi, ici. Gli interpreti greci dicono che ciò egli fece per eccessiva apprensione dei pericoli e delle fatiche continue, e altri, che per troppo affetto verso la madre. Comunque sia, egli in questo mancò, e S. Paolo punì questa sua deserzione, come vedremo nel capo quindicesimo. 13,15. Fatta che fu la lettura della legge, e dei profeti, ici. La lettura della legge si faceva per regola introdotta dallo stesso Mosè, e rinnovellata da Esdra, il quale aggiunse a questo, che si leggesse ancora ogni sabato qualche capitolo dei profeti. Gli ebrei dicono che quando Antioco Epifane proibì sotto pena di morte i libri della legge, gli ebrei sostituirono la lettura dei profeti, la quale, passato il pericolo, ritennero insieme con la legge. Se avete qualche discorso da istruire, ci è da supporre che Paolo e Barnaba erano collarrivati qualche giorno prima e avevano cominciato a parlare della dottrina del Vangelo e perciò erano conosciuti dai capi della sinagoga, i quali, portando l'uso che dopo la lettura sacra alcuno facesse l'istruzione al popolo, offersero questo onore a due apostoli, come a forestieri. 13,16. E voi, che temete Dio, eci. Pare indubitato che queste parole indichino i proseliti, ossia i gentili convertiti al giudaismo, i quali intervenivano con gli ebrei alle pubbliche adunanze. Ciò apparisce chiaramente dai versetti 26, 42, 50, 13,17, e lesse i padri nostri, e ci vale a dire li scelse tra tutti i popoli del mondo, per formare della loro discendenza un popolo consacrato al culto del solo vero Dio. Ed esaltò il popolo, mentre abitavano pellegrini e ci. Questo popolo forestiero nell'Egitto fece Dio che entrasse in grazia a Faraone per mezzo di Giuseppe, la qualcosa grandemente servì ad aumentarlo, e ingrandirlo. E alzato il suo braccio ici. A qui in vista l'Apostolo le parole dell'Esodo, capitolo 6, 6. 13,18. Sopportò i loro costumi nel deserto. Sopportò Dio con lunga e ammirabil pazienza le mormorazioni, l'ingratitudine, l'infedeltà degli ebrei nel deserto, e sebbene gli punì sovente per la loro ostinata disubbidienza, con tutto ciò non rigettò la nazione, né privòla delle continue dimostrazioni della sua carità. 13,19-20. Distribui loro la terra di esse, circa 450 anni dopo. Vale a dire, 450 anni dopo la promessa fatta da Dio ad Abramo, o piuttosto dopo dalla nascita di Isacco, ed ecco in qual modo si contano questi 450 anni. Dalla nascita di Isacco alla nascita di Giacobbe 60, da questa fino al tempo dell'ingresso nell'Egitto 130, da questo fino all'uscita dell'Egitto 215. Dall'uscita di Egitto fino all'entrare nella terra di Canaan anni 40, a quali aggiunti 7 anni fino al tempo della distribuzione fatta della medesima terra sono in tutto anni 452, cioè a dire, circa 450 anni, conforme leggesi anche nel greco. 13,21. Diede loro Saulle. Per anni 40. Contando dal tempo in cui egli fu unto in re fino alla sua morte. Altri seguendo l'ordine della scrittura sacra, nella quale il governo di Samuele è distinto da quello degli altri giudici di Israele, credono che questi 40 anni siano composti e del tempo in cui Samuele governò in qualità di giudice, e di quelli nei quali in certo modo regnò insieme con Saulle, assistendolo coi suoi consigli, fino al tempo cioè in cui Saulle fu riprovato ed eletto Davide. 13,25. E terminando Giovanni diceva: chi credete eci? La predicazione di Giovanni aveva fatto gran rumore presso gli ebrei, e il nome di questo profeta era sparso per ogni parte. Si serve adunque l'apostolo dell'autorità di Giovanni per dimostrare che Gesù è il Messia. 13,2. Condannato lui le adempirono. Era scritto nei profeti che il Messia doveva essere perseguitato, rigettato e condannato a morte dal suo stesso popolo. Queste profezie, le quali a ogni giudeo dovevano essere notissime, non furono intese da nessuno degli abitanti di Gerusalemme, tanto era grande la loro cecità, e senza saperlo le adempierono in tutte le loro parti. 13,29. Depostolo dal legno. Lo posero e ci benché quelli che un tal uffizio rendettero al corpo di Gesù Cristo fossero non nemici, ma discepoli del Salvatore. S. Paolo li unisce con gli altri abitatori di Gerusalemme, in quello che è di aver fatto tali cose senza sapere, che adempivano le voci dei profeti. 13,31. I quali erano andati insieme eci. Non solamente agli apostoli, ma anche alle donne, le quali erano con lui andate a Gerusalemme pochi di avanti, e altrove lo stesso apostolo dice che il Salvatore risuscitato apparve una volta a più di 500 persone insieme. 13,33. La Dio adempiuta per nostri figliuoli, eci. Il greco dice, la Dio adempiuta per noi figliuoli di essi? Il che sembra più naturale, e piano. Non di meno può sostenersi anche il senso della Vulgata dicendo, che il regno di Gesù Cristo non si vide in tutta la sua grandezza se non dopo la morte degli apostoli. Siccome anche nel Salmo II. Tu sei mio figliuolo, eci. Questo passo del Salmo II non lo adduce l'apostolo per provare la risurrezione di Gesù Cristo, impero che di questa comincia a disputare nel versetto seguente, dicendo, come poi lo ha risuscitato da morte. E ci vuole adunque l'apostolo dimostrare con la risurrezione di Gesù Cristo, che Dio ha verificata la promessa fatta ai padri, e a Davide, registrata nel Salmo II. Ora in questo Salmo si promette alla Chiesa un re, il quale essere doveva figliuolo di Dio, generato da Dio ab eterno, che è quello che significa la parola oggi, perché dinanzi a Dio tutto è sempre presente. Questa promessa, dice l'apostolo, è stata adempiuta in Cristo, il quale è figliuolo eterno di Dio, come Dio stesso ha ben dato a conoscere col risuscitarlo da morte, la qual morte non poté dominare sopra di lui, perché era figliuolo di Dio. Questa spiegazione è fondata sopra l'unanime consenso dei padri nell'intendere della generazione eterna del Verbo le parole sopracitate, tu sei chi il mio figliuolo, oggi io ti ho generato, e tenendosi a questa, sembra, che resti assai chiaro il discorso di S. Paolo. 13,34. Farò che siano ferme per voi le promesse fatte a Davide. Il ragionamento dell'apostolo è questo. Dio in queste parole di Isaia afferma che le promesse fatte a Davide, e per mezzo di lui a tutta la terra, non mancheranno. Ma se Cristo fosse morto, e non fosse risuscitato, queste promesse sarebbero, per così dire, morte con lui. Bisogna dunque che egli sia risuscitato, affinché salde e immutabili rimangano queste promesse. 13,36. Avendo nella sua età eci Davide dopo avere servito per tutto il tempo di sua vita al Signore, morì e fu sepolto come i suoi padri, e il suo corpo patì corruzione. Non sono adunque dette di lui tali cose, ma bensì di colui, del quale Davide era figura. Di colui che del seme di David doveva nascere, cioè di Cristo. Questi essendo figliuolo di David, è uomo, e come uomo è soggetto alla morte, ma perché l'alleanza, che posa tutta sopra di lui è eterna, è necessario che egli risorga per vivere eternamente. 13,38. Da peccati, e da tutte quelle cose, eci. Dalla falsa fidanza, che avevano nella legge. Gli rappella a Cristo fine della legge, nel quale dice che avranno una miglior redenzione. 13,41. Mirate voi, disprezzatori, eci. Queste parole del profeta Abacuc, capitolo 5, le quali letteralmente contengono la minaccia fatta da Dio agli ebrei di punire la loro ingratitudine per mezzo dei caldei, significavano ancora secondo l'intenzione dello Spirito Santo l'accecamento. E la riprovazione dei giudei ribelli alla fede, e la vocazione delle genti. 13,42. E uscendo essi li pregarono, eci Paolo, e Barnaba terminato il loro discorso, lasciarono l'adunanza, e la richiesta, che fu loro fatta di parlare anche nel sabato veniente, venne sicuramente dai capi della stessa sinagoga. 13,43. Molti dei giudei e dei proseliti religiosi seguitarono Paolo e Ci. Questi erano stati convinti della verità del Vangelo, e per questo andarono a trovare gli apostoli, e questi esortandoli a star costanti nella grazia, che avevano ricevuta da Dio, presero tempo per meglio istruirli, e ammettergli al battesimo. Grazia di Dio si chiama la fede, la quale non è concessa se non per insigne beneficio di Dio. Vedi Eb. 12:15 e T. Pet. V. 12. 13,45. Veduto quel concorso si riempirono di zelo, e ci. Di uno zelo falso, non secondo Dio, né secondo la ragione, zelo, che era vera invidia, perché non poteva impatire di vedere agguagliati a sé i gentili, quindi è che pieni di furore, e quasi fuori di se stessi prorompevano in aperte le bestemmie. 13,46. A voi primamente dovea essere detta eci. A voi come figliuoli, ed eredi dei padri, a quali fu promesso il Cristo, e per quali egli stesso si dichiarò di essere stato mandato. E vi sentenziate come indegni eci giacché rifiutando il Vangelo, che è la semenza di vita eterna, venite a dichiararvi indegni di aver parte a questa vita. 13,47. Impero che così ci ha ordinato il Signore, ti ho costituito eci. Il passo di Isaia citato dall'Apostolo è assai chiaro, e gli ebrei enni avevano sotto gli occhi l'adempimento, la qualcosa avrebbe dovuto servire non ad irritarli, ma ad umiliarli, e confonderli. 13,48. E credettero tutti quelli che erano preordinati eci. Da queste parole sovente esse, Agostino ne ha inferito. Che l'elezione alla gloria dipende dalla sola libera volontà di Dio, non dai meriti degli eletti, che anzi ella è anteriore a qualunque previsione di meriti. Si dice adunque, che abbracciarono la fede tutti quel che erano predestinati alla gloria, dando loro Dio e allora, e in tutto il tempo della loro vita, le grazie necessarie per conseguire l'eterna felicità. Rimasero gli altri nella incredulità, e vi rimasero per loro colpa. 13,50. Miser su delle matrone timorate, eci. Questo epiteto timorate dimostra che queste matrone erano proselite zelanti dell'onore del giudaismo, mogli, o congiunte di sangue con i proseliti di quella città. Queste incitarono i mariti, i parenti, e anche le donne pagane. I principali uomini della città, eci. I primi decurioni detti in latino principali, erano dove 5, dove 10, e in qualche città fino a 20. 13,51. Scossa contro di coloro e ci osservano alla lettera il comando fatto loro da Gesù Cristo, Met. X. 14. Pronunziando in certo modo con questo fatto sentenza di maledizione contro quegli increduli ebrei. 13,52. I discepoli poi erano ripieni e ciò si intende dei fedeli acquistati a Cristo in Antiochia, i quali benché lasciati dagli apostoli in mezzo al furore dei nemici della fede, erano però consolati, e inanimiti dalla speranza dei beni celesti, e dalla grazia dello Spirito Santo.